Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi cominciamo ascoltando la voce di uno dei mostri sacri della cultura italiana, nonché un autentico padre della patria. Sentite cosa diceva a proposito di un filone della letteratura di cui ogni tanto ci occupiamo anche in questa trasmissione. È stato notato che da qualche anno in qua si stampano e si leggono assai meno che nel quindicennio precedente vite romanzate. E si è fatta la previsione che fra non molto di esse si udrà discorrere come di una moda caduta. Certo, dopo l'intenso sfruttamento che è stato proseguito di questa vena mineraria scoperta con grande loro gioia dagli esercenti della letteratura amena, l'esaurimento era inevitabile, perché quasi tutti i possibili personaggi da romanzare, uomini di guerra, uomini di Stato, scopritori, rivoluzionari, poeti, artisti, eroi, malfattori, avventurieri, donne famose per virtù o più spesso per il contrario, sono stati già sottomessi a quel trattamento. Come dire che non c'è più materia che viene dalle grandi vite. L'autore di queste parole è Benedetto Croce, al quale è dedicata una nuova biografia che serve a riaccostarci al suo pensiero. L'autore di questo libro è Gian Cristiano Desiderio. Il titolo del libro è Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce, pubblicato da Liberi Libri, 376 pagine, 19 euro. Perché vita intellettuale e affettiva? Perché secondo l'autore quella di Croce è la vita che ci può indicare meglio di qualunque altro documento il suo pensiero e ci permette di cogliere la permanente attualità di quest'ultimo. Tanto più meritevole quindi è questo libro, quanto più marginalizzato fu, come scrive l'autore stesso, nel secondo dopoguerra il pensiero liberale di cui Croce con Einaudi fu il massimo esponente in Italia. E fu Bobbio a riconoscere, ma al termine della sua carriera, che la storia aveva dato ragione proprio a Croce. Il filosofo era vissuto tra il 1866 e il 1952, la sua vita fu segnata dalla tragedia di un terremoto che gli portò via i genitori, lui stesso rimase molte ore sotto le macerie e poi da questa drammatico cambiamento della sua vita deriva il trasferimento a Roma dagli zii Spaventa. Da qui comincia un lungo cammino che fece di Croce un grande filosofo, un grandissimo filosofo, ma anche un altrettanto grande organizzatore di cultura e naturalmente un implacabile antifascista, nonché un uomo politico, sia come ministro della pubblica istruzione con Giolitti prima del fascismo che dopo, nella fase della ricostruzione del paese, come rifondatore del Partito Liberale e membro della Costituente. Ma sentiamo l'autore. Buonasera a Gian Cristiano Desiderio. Buonasera a voi. E Gian Cristiano Desiderio, il suo libro inizia con un giudizio molto coraggioso su Croce che lei definisce il Socrate italiano. Ecco, in che senso Croce è paragonato da lei a Socrate? Beh, nel modo più semplice e allo stesso tempo più vero e più classico, nel senso che Socrate, in nome della coscienza libera, si oppose al potere e la stessa cosa ha fatto Benedetto Croce nel Novecento, si è opposto alla tracotanza del potere in nome della libertà della coscienza, non tanto in nome della verità, quanto in nome della libertà della coscienza e quindi della difesa della verità, nel senso che la verità non può essere asservita al potere, ma è concepita invece come una critica del potere, una limitazione del potere umano. Il primo capitolo del suo libro si intitola La vita come opera filosofica e lei qui scrive che per capire al meglio le opere di Croce va indagata l'esistenza dell'uomo. Ecco, qual è il nesso fra la vita e l'opera di Benedetto Croce? Beh, Benedetto Croce tutto è stato, tranne che un accademico, tranne che un professore di filosofia. E il suo pensiero è un pensiero che nasce dalla vita e ritorna alla vita. In questo senso la filosofia di Benedetto Croce è una risposta alla vita, è una risposta alla sua esistenza. C'è chi ha detto che la sua filosofia e le sue opere altro non sono che il suo romanzo interiore, e in effetti è esattamente così. Ma il cuore del problema è che Croce non è stato un filosofo accademico, anzi, non solo non è stato un filosofo accademico, ma è stato consapevole della necessità, lui stesso lo scrive nelle sue lettere, ad esempio a Sebastiano Maturi, della necessità di creare un movimento filosofico extrauniversitario. Lei scrive che nell'opera di Croce la protagonista della storia compare la libertà, ne ha fatto già un cenno, però accenna anche a questa difficoltà che ebbe Croce quando, appunto, negli anni del fascismo si accorse che la libertà può trovare dei grossi ostacoli. Ecco, che cosa rappresentò questa, non chiamiamola delusione, ma questo scontro con il fatto che la realtà purtroppo dimostrava che la libertà era annichilita in quegli anni? Sì, in quegli anni tutta quanta la classe politica, intellettuale e liberale, che era erede dell'Italia risorgimentale, si scontrò con il fascismo e cadde quella che era una illusione di quella classe politica e intellettuale, ossia che lo Stato liberale, una volta costruito, una volta edificato, potesse essere semplicemente duraturo, eterno. E invece ci si rese conto che la libertà, così come viene al mondo, così decade e quindi bisogna averne cura, bisogna alimentarla. Ecco perché Croce arriverà a dire giustamente che noi non dobbiamo fondare la cultura, e noi possiamo aggiungere la cultura liberale sulle istituzioni, ma al contrario, dobbiamo fondare le istituzioni sulla cultura, e in questo caso sulla cultura liberale. A un certo punto Croce diventa ministro con Giovanni Giolitti, non sarà un'esperienza molto lunga, però segnerà il rapporto con questo grande politico liberale, espressione di un liberalismo riformatore, pragmatico, anche geograficamente abbastanza lontano da quello di Croce, però il rapporto fra Croce e Giolitti fu un rapporto molto stretto e di grande stima reciproca. Sì, quando Croce andò al governo, nell'ultimo governo Giolitti, ebbe la possibilità di conoscere Giolitti, perché fino a quel momento i due non si erano incontrati e non si conoscevano. Il rapporto tra Giolitti e Croce, possiamo anche dirlo senza tema di smentita, è più importante per Croce piuttosto che per Giolitti, perché attraverso questo rapporto in qualche modo cambia anche il giudizio di Croce nei riguardi della politica, nei riguardi della storia d'Italia. Che cosa dice Giolitti guardando all'opera Croce come ministro? Perché naturalmente Giolitti, come tutti quanti, come dire, i politici e le persone, diciamo così, normali, diffida in qualche modo di un filosofo che va al potere. Però quando lo vide all'opera come ministro, disse però quanto buon senso ha questo filosofo. Ecco, questo è l'unico giudizio di cui Croce andò sempre orgoglioso. Mentre Einaudi non amava Giolitti. Einaudi non amava Giolitti, ma non solo Einaudi, Salvemini non amava Giolitti e lo stesso Gentile non amava Giolitti. La famosa definizione di Salvemini, Giolitti come ministro della malavita, è lo stesso giudizio che diede anche Gentile, cioè in Giolitti si vedeva il peggio della storia italiana e il fascismo viene al mondo come una sorta di negazione di quella storia, laddove invece Croce consapevolmente vuole e difende quella storia perché vede in quella storia la crescita dell'Italia nell'idea stessa della libertà. E infatti, quando poi cadrà il regime mussoliniano, l'opera di Croce sul versante del pensiero e quindi della conoscenza e sul versante dell'azione politica sarà proprio questa, cioè la continuità dello Stato italiano e la continuità di quella storia, che è una storia di libertà. Questo è importante, questo è molto importante. Ci può anche essere un parallelo con i giorni nostri, in questo senso, che il giolittismo, indicando nel giolittismo il peggio del peggio, lo si voleva anche eliminare da un punto di vista giudiziario. Lo stesso Giolitti, all'origine della sua carriera politica, incappa in una questione giudiziaria con la storia della Banca di Roma, no? Ecco, in questo c'è invece una grossa differenza. Croce non giudica la storia attraverso categorie di natura giudiziaria. Questo è molto significativo. Per accostarsi a Benedetto Croce, oggi che le sue opere hanno ripreso a essere pubblicate, quali sono i titoli che si sentirebbe di consigliare a un lettore di oggi? Guardi, mi sentirei di indicare un testo che probabilmente si reperisce facilmente ed è Il contributo alla critica di me stesso, che è un testo, forse è il primo volumetto pubblicato dalla Adelphi quando prese a pubblicare Croce. E poi potrebbe prendere anche l'antologia che volle fare Croce alla fine dei suoi anni, dove antologizzò se stesso. Croce non aveva grande simpatia per le antologie e quando Raffaele Matteoli gli propose questa idea, in un primo momento la rifiutò e la scartò. Poi ci pensò sopra, siccome era alla fine della sua vita operosa, e disse: ma se non lo faccio io adesso, lo farà qualcun altro dopo, e chissà con quale criterio. Allora preferì fare lui questa antologia. All'interno di quell'antologia c'è un po' tutto Croce, e Croce privilegiò le opere degli anni 30, e quindi le opere saggistiche, piuttosto che ai trattati del primo decennio del Novecento. Ecco, io indicherei al lettore quell'antologia in cui ha in mano un po' tutta quanta l'opera di Benedetto Croce, e la potrà apprezzare, soprattutto magari potrà anche non condividerla, ma la potrà apprezzare per un motivo molto semplice, perché Benedetto Croce è di una chiarezza smagliante, forse insieme con Alessandro Manzoni è il maggior prosatore della storia della letteratura italiana. Grazie a Gian Cristiano Desiderio, autore di Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce. Buona serata. Buonasera e grazie a voi. Vi ricordo allora alcuni titoli citati da Desiderio: il contributo alla critica di me stesso è pubblicato da Adelphi, 132 pagine, 10 euro. L'antologia si intitola La mia filosofia, è pubblicato sempre da Adelphi, 370 pagine, 18 euro. Poi c'è un'antologia di scritti politici, La religione della libertà, pubblicata questa da Rubbettino, 362 pagine, 22 euro. A proposito di filosofi antitotalitari, antifascisti e filosofi della libertà, vi segnalo una figura molto significativa e relativamente poco nota, quella di Giuseppe Renzi, che visse tra il 1871 e il 1941. Fu esule in Svizzera perché socialista, scappò appunto dopo i moti del 1898 e in Svizzera diventò il primo deputato socialista nel Canton Ticino. Poi tornò in Italia, si dedicò alla filosofia e durante il fascismo aderì appunto al manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce. Per questo fu incarcerato ed estromesso dalla cattedra universitaria. Adesso di Renzi viene ripubblicato il libro La filosofia dell'autorità, è pubblicato dalla Vita Felice, 278 pagine, 14,50 euro. Scopo del libro, spiega nell'introduzione del libro Paolo Beltramin, è quello di proporre un esame di coscienza, cioè di rimettere tutto in discussione, di passare sotto l'esame attento del filosofo i sottili meccanismi del potere che abbiamo ormai assimilato come naturali e diamo per scontato nella vita di tutti i giorni, così Beltramin. Insomma, questo è un libro sulla politica, anzi un libro scettico sulla politica, che sa anche di risultare impopolare. Renzi stesso infatti scrive a un certo punto che la mia filosofia dà naturalmente fastidio a tutti i sistemi, perché per questi quello che è per l'individuo l'esame di coscienza, che inquieta, disturba, crea il dubbio di essere nel giusto continuando a fare quel che si fa, suscita il rimorso e il malcontento di sé, rende molesta le posizioni abitudinarie e comode e quindi si schiva volentieri. In particolare, il libro combatte l'illusione che la politica possa eliminare i fatti bruti, i ciechi, i violenti come la guerra, le decisioni di arbitrio, così li definisce l'autore, gli atti di mero imperio. Insomma, la politica è anche potere, è lotta per il potere e quindi questo libro è un libro realista che non ha alcuna illusione sulla possibilità di arrivare a una politica assolutamente razionale. Perciò Renzi contesta qui il meccanismo cardine della moderna democrazia, cioè il voto, che non riesce certo da solo ad attuare la razionalità politica. E allora di qui la fuga o la salvezza nello scetticismo, che, conclude Renzi, è l'arma più potente ed efficace contro l'autorità e il conformismo, quando il loro impero è esteso, formidabile e potente su tutte le sfere della vita politica, economica, religiosa, scientifica, morale dell'individuo. Come vedete, parole profetiche e molto attuali. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo i trionfi cinematografici della grande bellezza, andiamo a Roma. Andiamo a Roma a conoscere, a frequentare il cosiddetto ambiente bobò, come dicono i francesi, dei borghesi bohemien. Li incontriamo nel loro ambiente, nel quartiere di Roma dove amano in questo momento e prediligono abitare, che è il quartiere Monti, Rione Monti. Li troviamo quindi nel libro di Michele Masneri, Addio Monti, pubblicato da Minimum Fax, 170 pagine, 14 euro. Durante una lunghissima coda al supermercato, una Gloria e il suo anonimo compagno si scambiano informazioni, pettegolezzi, gossip su amici e conoscenti, tutti espressione appunto di quel ceto medio intellettuale fatto di organizzatori di eventi culturali, di giornalisti, di scrittori, tra cui uno che ha pubblicato proprio un addio Monti, personaggi televisivi possibilmente di seconda fila, speculatori edilizi che evocano per esempio Pasolini per nobilitare oscuri quartieri di estrema periferia e far aumentare il valore immobiliare di queste case. Da questa coda e dai pettegolezzi che si scambiano i due esce un quadro implacabile di quel mondo, spesso corrotto, sempre conformista, talora ipocrita, altrettanto spesso ridicolo, che popola il rione Monti e direi tutto l'ambiente culturale italiano. Il libro è ricco di riferimenti, spesso trasparenti a luoghi, persone, appuntamenti, con uno stile che richiama anche Arbasino in certi punti e una trama che è quasi un documentario sulla pochezza di questo nuovo gruppo sociale, molto alternativo ma anche molto attento all'euro, come dimostra questo ritratto di un giornalista prezzolato. Non capisco, pensavo fosse un solone, un moralistone, Minorenti. Si gira di nuovo e prende un grosso cespo di insalata romana sgocciolante e fresca, di prima gamma. E lo è. Devi vedere quando il cliente di turno non paga le fatture. E maledetta la piccola e media impresa familiare, che devono morire tutti qui e serve liberare le forze del mercato. Che poi è la sua teoria anche, e del tutto condivisibile. Liberista fino al midollo, molto nemico di Keynes e dell'intervento pubblico, dice e scrive fino alla morte che le piccole e medie imprese devono fallire tutte, viva la Cina, e che fanno bene le banche a farle fallire, che bisogna alzare l'asticella del credito. Asticella è un'altra parola che gli piace molto. Che le imprese italiane sono troppo piccole, sono sottocapitalizzate, è tutta colpa del size. Bisogna aumentare molto il size. Sai poi che odia l'imperatore delle TV? Proprio da sempre, fin da tempi non sospetti. È stato uno dei pochissimi all'epoca a dare ragione a Martinazzoli quando rifiutò l'accordo con Berlusconi nel 94. Da allora, pezzi infuocati contro lui e contro Mediaset per 30 anni. Analisi spietate dei bilanci. Lo chiama l'impresario, anche negli articoli, perché dice che non è neanche un imprenditore e dove ha fatto, ivi ha fallito. Non sono in molti a poter vantare una simile coerenza, solo che pochi se ne accorgono. Qualcuno sospetta che sia perché Berlusconi è uno dei pochi che non ha mai voluto pagare. Anche a sinistra, comunque, pochissime benemerenze, perché si sa che lui è brutalmente anticomunista. Dunque, pochi amici, immagino. Non sta proprio in nessuna lobby? Neanche una loggia minore? Un paria. Lo si vede anche a Cortina, mai nelle case giuste. Al massimo dalla Spaziani, che fa per lui un piccolo ricevimento in camera al Savoia. Montezemolo lo evita, lo sanno tutti. Mai dai Barilla, mai dai Benetton. Mai invitato a parlare agli eventi di Cortina Topic, e questa è la cosa che lo manda ai matti, perché ci vanno proprio tutti. Lo trattano insomma come un fornitore. Una volta pagate le fatture, si sentono a posto. E per le visioni e le colazioni si sentono liberi di rivolgersi a un'altra ditta. I Bobò originali, quelli francesi, troviamo nel libro di una celebre scrittrice francese, autrice del fortunato Il Dio del Massacro, da cui è stato ricavato il film di Roman Polanski, Carnage. Lei è Jasmina Reza, che torna con Felici Felici, titolo borghesiano, pubblicato da Adelphi, 164 pagine, 18 euro, tradotto da Maurizia Balmelli. Curiosamente questi due libri che vi ho citato hanno le copertine molto simili, troviamo infatti tre figure, una nel libro di Masneri, due in quella della Resà, nude di spalle, una in particolare alza le braccia e le accavalla sopra la testa. E anche qui, altrettanto curiosamente, si parte da una spesa al supermercato nel weekend. I protagonisti qui sono un giornalista e la compagna avvocato, la coda degenera in una rissa memorabile per delle stupidaggini naturalmente, attraverso dei passaggi quasi impercettibili che conducono però appunto a un esito drammatico. E il libro è appunto costruito su una serie di brevi incontri, di colloqui, ritratti che mettono sotto osservazione un microcosmo esaminato come da un entomologo, riservando delle sorprese amarissime sui protagonisti di questo micro serraglio. Torniamo invece a Roma con un libro la cui copertina riecheggia proprio la grande bellezza di Sorrentino. E troviamo anche qua un bellissimo, raffinatissimo Panama bianco che domina una copertina rossa. Questo è il libro di Raffaele La Capria, La bellezza di Roma, è pubblicato da Mondadori, 86 pagine, 10 euro. Di La Capria, classe 1922, uno dei più fortunati, meritatamente, scrittori italiani, vengono qui riproposti alcuni scritti dal 1975 al 2011 sulla capitale, e troviamo qui delle pagine che grondano tanto affetto e nostalgia quanto realismo e anche un'osservazione implacabile sul degrado attuale della città. Formidabili, per esempio, sono le prime pagine di questo libro, in cui un impiegato ministeriale fotografa in poche pennellate il peso paralizzante del ceto burocratico, che egli naturalmente difende con argomenti che possono far ben comprendere la resistenza a ogni cambiamento che ancora oggi proviene da quel mondo. E poi troviamo anche la rievocazione degli anni in cui La Capria arriva a Roma da Napoli, qui comincia a lavorare alla Rai. Sono anni comunque vivi in cui la capitale era brillante, effervescente, così la definisce lo scrittore. E per finire La Capria ci dà qualche modesta proposta per risollevare la città e farle recuperare un po' della sua passata bellezza. Di La Capria voglio segnalare una traduzione di uno dei capolavori poetici del Novecento. L'autore del poema che adesso vi presento è Thomas Sterne Eliot, un grandissimo poeta del Novecento, americano di nascita, inglese d'adozione, premio Nobel nel 1948 per la letteratura. Di uno dei suoi capolavori viene appunto ripubblicata adesso, con la traduzione di La Capria, Quattro quartetti. Troviamo anche il testo originale comunque di Eliot. L'editore di questo libro è Enrico Damiani, editore, 136 pagine, che dà vita con questo titolo a una nuova collana di lusso. Infatti il libro è tirato in 500 esemplari e illustrato da José Muñoz. Ogni volume di questa collana, che si intitola Gli Unici, costa 90 euro. Questo poema, dicevo, è una delle più famose opere di Eliot, che ruota intorno a quattro luoghi: un castello disabitato, un villaggio rurale, un gruppo di scogli sulle coste del Massachusetts e un villaggio dove ebbe vita una comunità spirituale, e quattro stagioni. Furono composti tra il 1935 e il 1942 e sono considerate una delle opere più significative del Novecento per il valore poetico e la densità di simboli delle riflessioni filosofiche di Eliot. Interessante in questo libro la testimonianza del traduttore, appunto, di La Capria, che spiega l'emozione che riuscì a trasmettere Eliot, che era considerato un autore di destra, ai giovani dell'epoca che militavano nella sinistra, che però scoprirono emotivamente questo grande poeta. E per questo, proprio già nel 1944, La Capria ricorda di essersi dato da fare per pubblicare la traduzione italiana dell'ultimo quartetto. A proposito di statali, di cui abbiamo parlato nel libro di La Capria, un impiegato pubblico con minor sussiego di quello di La Capria è Massimo dell'Impegno, che chiaramente è un nome finto, uno pseudonimo di un impiegato pubblico, che ha scritto un libro abbastanza implacabile, e cioè gli impiegati pubblici, puntini di sospensione, dovrebbero licenziarli da piccoli. Guida semiseria alla vita nella pubblica amministrazione, pubblicato da Robin Edizioni, 144 pagine, 10 euro, un libro semiserio ma che non nasconde nulla dei vizi della pubblica amministrazione. Per esempio, cito dal libro, il linguaggio, la lentezza, i ritmi, le prerogative vere o presunte dei burocrati, la routine implacabile, il doppio lavoro. E per passeggiare a Roma con una guida insolita vi segnalo di Rosa Mordenti, Viola Mordenti, Lorenzo Sansonetti e Giuliano Santoro, Guida alla Roma Ribelle, è pubblicato da Voland, 380 pagine, 16 euro. Questo è un approccio particolare, ma nella stessa serie ci sono anche Parigi e Barcellona, per conoscere la città attraverso luoghi e atteggiamenti di rottura, per esempio quello di Martin Lutero, di Caravaggio o di scrittori o scrittrici come Elsa Morante, di luoghi dai quali partono le grandi manifestazioni, luoghi come le strade di Mario Monicelli, le ultime case occupate. Naturalmente non ci sono soltanto dei luoghi fisici, ma anche personaggi, testimonianze di una Roma dall'antichità a oggi, che ci danno un quadro tormentato rispetto alla tradizionale immagine sorniona, come la chiama nella prefazione Alessandro Portelli, della capitale. Invece, in una delle pagine artistiche più significative di Roma ci porta un giallo di Roberto Ivaldi, che è uno studioso di Roma e del Medioevo Medioevo, che si intitola Il mistero dei cosmati. È pubblicato da Exorma, 262 pagine, 15 euro. I cosmati sono una straordinaria dinastia di maestri marmorari che furono attivissimi a Roma a partire dal XII secolo e che hanno lasciato alcuni tra i più bei pavimenti, altari e decorazioni marmore nelle chiese dell'epoca, che sono anche puntualmente elencati nell'appendice, che non sono limitati soltanto alla città di Roma. Qui nel libro ci troviamo nel XV secolo, quando Braccio del Poggio indaga su una misteriosa tavoletta che gli è stata consegnata dall'ultimo dei cosmati e su un antico manoscritto sulla corporazione che daranno il via a una serie di indagini su antichi e misteriosi delitti. Una ricostruzione appassionata di Roma di fine 400, del gusto antiquario dell'epoca e soprattutto di una dinastia artistica che ha contribuito a fare il volto di Roma. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo appena parlato di gialli e quindi vi segnalo un'avventura che è La Sesta, in cui troviamo i giovani Sherlock Holmes e Arsenio Lupin. Assieme a loro Irena Adler, che è il nome dell'unico personaggio femminile importante di Conan Doyle, che qui compare come autrice del libro, ma il nome è lo pseudonimo di Alessandro Gatti. Il libro si intitola Le ombre della Senna, pubblicato da Battella Vapore, 234 pagine, 16 euro, illustrate da Jacopo Bruno, e qui troviamo una nuova avventura dei tre futuri famosi personaggi, ancora giovanotti, che qui indagano sulla misteriosa scomparsa di un giovane intorno alla quale esplode una misteriosa guerra tra bande rivali. E con questo ringrazio Luca Cremonese e Lorenzo Nespoli in redazione, Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.